mi offrono un incarico di responsabilità. Domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto per partire. Getterò i bagagli in mare, studierò le carte e aspetterò di vedere per dove si parte, quando si parte. E quando passerà il monsone dirò: levate l'ancora, questa è la rotta, questa è la direzione, questa è la decisione.